Italia in controluce, la politica nel tunnel. Buongiorno da Vincenzo Miglietta, Italia in controluce dedicata anche oggi alla politica. Dopo settimane di attesa ci siamo, domani si inizierà a votare per il nuovo Presidente della Repubblica. Ore decisive dunque queste per arrivare o meno a quel nome condiviso che possa ottenere già alle prime votazioni il via libera per il Quirinale, un nome che possa andare bene alle diverse anime del Partito Democratico e al Popolo della Libertà. Giuliano Amato, Massimo D'Alema, Romano Prodi, Emma Bonino, Sabino Cassese e poi la rosa di nomi uscita dal Movimento 5 Stelle, Milena Gabanelli, Gino Strada, Stefano Rodotà. Partiamo allora proprio da Grillo che apre al PD, a Bersani, manda a dire voti il nostro nome e poi ci potrebbero essere sorprese. Come ad intendere, il Movimento 5 Stelle potrebbe aiutare in qualche modo il PD nella formazione del governo. Il nostro tema principale di oggi allora è questo, chiediamo ai nostri ascoltatori se questa apertura di Grillo può essere positiva, se Bersani può, deve fidarsi, anche se i primi commenti del PD vanno in direzione opposta. 349-238-6666 il numero per gli sms. Chiediamo allora ad Andrea Viali, che in questi giorni sta seguendo proprio il Movimento 5 Stelle, di farci capire cosa intende Grillo con la sua offerta al PD e se la Gabanelli ha deciso cosa farà. Andrea. Sì, Vincenzo, Beppe Grillo la sua proposta oggi l'ha rilanciata anche in un'intervista che è stata pubblicata dal Fatto Quotidiano. Qualcuno più che di proposta in realtà parla di sfida o anche di trappola. Comunque Grillo ha detto in sostanza a Bersani di votare il candidato al Colle scelto dai 5 Stelle con le Quirinarie, perché poi potrebbe iniziare un dialogo, un confronto, ha detto, anche su altre questioni, e soprattutto ha lasciato intendere che potrebbe arrivare anche un sostegno da parte dei grillini ad un eventuale governo a guida Bersani, una cosa sulla quale comunque ha specificato Grillo a decidere sarà il movimento. Sempre Grillo, tornando sui candidati, ha spiegato che se Milena Gabanelli, che ha vinto le Quirinarie, e Gino Strada, che è arrivato secondo, non accetteranno la candidatura, cosa molto probabile, ha detto, allora il nome sarà quello di Stefano Rodotà, il giurista, lo ricordiamo, si è piazzato terzo ed è un nome che potrebbe piacere alla sinistra. Stamattina la Gabanelli ha fatto sapere che scioglierà la riserva in giornata, farà sapere se accetterà la candidatura o meno. Strada invece ha spiegato che se anche la giornalista dovesse rinunciare non è automatico che a prendere il suo posto sarà lui, ma la decisione spetterà ai 5 Stelle, al movimento, ha spiegato il medico fondatore di Emergency, Vincenzo. Ecco Andrea, abbiamo i primi sms dei nostri ascoltatori, e Bersani non deve fidarsi, Grillo è un saltimbanco, dice Maria Rosa, ma quindi Andrea, ecco, per capire meglio, domani al momento delle prime votazioni, poi fisicamente cosa faranno deputati e senatori? Inizieranno a votare, penso io, la Gabanelli o gli altri nomi, o qualora per esempio dovesse uscire un nome come Prodi, andranno dietro a questa indicazione? Guarda, io ti posso dire quella che sarà la linea ufficiale dei grillini, perché l'hanno decisa ieri sera, si sono riuniti tutti i parlamentari 5 Stelle, deputati e senatori, e in sostanza hanno detto che voteranno soltanto il loro candidato anche dopo il terzo scrutinio, quindi almeno stando alle posizioni ufficiali non ci saranno convergenze da parte loro su altri nomi, e anche per questo motivo oggi potrebbe saltare l'incontro che in realtà è stato già rinviato un paio di volte fra i loro capigruppo, i capigruppo grillini e i rappresentanti del Partito Democratico. Abbiamo deciso di votare Milena Gabanelli, se dobbiamo incontrarci per ribadire sempre le solite cose, questo è un esercizio inutile, ha detto in sostanza stamattina Vito Crimi, che è il presidente dei senatori a 5 Stelle. Crimi ha comunque detto che la situazione è comunque in divenire, quindi non ha escluso che poi contatti possano esserci in giornata, quindi tutto molto fluido anche su questo fronte, Vincenzo. 349-238-6666, leggiamo qualche sms dei nostri ascoltatori. Antonio dice: l'apertura del Movimento 5 Stelle è importante, Bersani per evitare di andare a vedere dovrebbe lui proporre Rodotà, non deve fidarsi di Grillo se vuole avere un futuro di credibilità. Invece, dice Davide da Pisa, il PD deve accettare Rodotà, Bersani deve continuare sulla sua strada perché la politica ha bisogno di serietà, non di personaggi improvvisati, scrive Guido da Bergamo. Bergamo, ma come si fa a accettare un candidato votato da due gatti e per di più di parte? Grillo è proprio fuori, scrive un nostro ascoltatore. 349-238-6666. Sin qui quindi sentivamo da Andrea Viali le posizioni del Movimento 5 Stelle. PD e PDL lavorano invece su toni apparentemente più sommessi. L'identikit resta quello di una personalità che aggreghi e non divida. L'appartenenza politica a questo punto è divenuto un elemento relativo. Se è vero che D'Alema, ex PC, potrebbe andare bene a Berlusconi e Prodi no, si lavora con contatti diretti tra le parti, molte le telefonate che vi sarebbero state tra Palazzo Grazioli e Largo del Nazareno, le dichiarazioni ufficiali. Allora, il PD non scopre le carte, non fa nomi, parla di una personalità di alto profilo. Questa sera la riunione dei gruppi parlamentari del Partito Democratico, poc'anzi, pochi minuti fa, la deputata Moretti ha detto ma probabilmente domani non sarà ancora il giorno per il nuovo Presidente della Repubblica. Prodi invece andrebbe bene ai Montiani, secondo Scelta Civica però non ce la farà, il coordinatore Olivero insiste perché si coinvolga anche il Popolo della Libertà nella scelta. Per Berlusconi, Amato e D'Alema resterebbero la prima scelta, facendo così un borsino dei candidati. Potremmo dire Amato, D'Alema, il giurista cassese in rialzo, stabile Prodi, giù Marini e Finocchiaro. Sin qui quindi le varie posizioni delle forze politiche, ma è interessante vedere come funziona l'elezione del Presidente della Repubblica. Domani l'appuntamento è alle 10 qui a Montecitorio, sono chiamati a votare più di 1000 grandi elettori. Allora è con noi Alessandra Schepisi. Alessandra, un appuntamento importante, tanti elettori, come funziona la votazione per il Presidente della Repubblica? Eh sì, Vincenzo, il Parlamento si riunirà domani alle 10, come hai detto tu, in seduta comune, integrato dai delegati regionali, a comporre la platea dei 1007 grandi elettori. Sono i 630 deputati, 316 senatori, 4 senatori a vita e 58 rappresentanti delle regioni. A presiedere le votazioni è la neopresidente di Montecitorio, Laura Boldrini. Una elezione che ha luogo a scrutinio segreto, nei primi tre è richiesta la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea, dal quarto è sufficiente la maggioranza assoluta. E il calendario delle votazioni verrà stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Camera e Senato, che si riunisce nel pomeriggio. Si saprà dunque solo tra qualche ora quando effettivamente sarà il secondo scrutinio, se già nella giornata di domani. Prima voteranno i deputati, poi i senatori, infine i delegati regionali, e ogni scrutinio dovrebbe durare tra le 4 e le 5 ore, Vincenzo. Sì, leggendo qualche sms, Rodotà per il PD del cambiamento non può rappresentare una trappola grillina, scrive Paolo da Modena. Visti i nomi in ballo mi preparo ad emigrare, addirittura scrive Mario da Livorno. Tutti a casa, Grillo è lo strumento meno doloroso per l'Italia, va tenuto, scrive un nostro ascoltatore. Giancarlo Caselli, una scelta concreta, scrive Roberto da Pesaro. Tornando ad Alessandra, Alessandra Schepisi, ma le votazioni del passato ci insegnano qualcosa? C'è chi ci ha messo pochissimo ad essere eletto, chi invece ha dovuto aspettare più votazioni? Ecco, il record della rapidità lo detengono Cossiga e Ciampi, che vennero eletti in un solo giorno al primo scrutinio, mentre per Leone furono necessari 16 giorni e 23 scrutini, e tra questi due estremi si collocano poi tutti gli altri presidenti: Scalfaro 12 giorni, 16 scrutini, Napolitano 3 giorni e 3 scrutini, mentre Pertini, eletto al decimo giorno e al sedicesimo scrutinio, detiene però il record del maggior numero dei voti. Grazie, grazie ad Alessandra Schepisi e ad Andrea Viali. Da Vincenzo Miglietta un saluto.